Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi incontra un personaggio di grande rilevanza, Bruno Munari, probabilmente il più importante illustratore delle novelle filastrocche di Gianni Rodari. Già l'abbiamo incontrato l'anno scorso in una mostra romana in cui si evidenziavano le sue copertine a commento del grande narratore di Omegna. Oggi lo ritroviamo invece scalpalazzo delle esposizioni, con ingresso gratuito, questo va detto, in questa mostra Toccare la bellezza, che mette appunto in parallelo Bruno Munari e Maria Montessori. Una mostra, ricordo, visitabile fino al 27 febbraio dell'anno prossimo, quindi c'è tempo di andare a Roma. Toccare la bellezza, perché tra Maria Montessori e Bruno Munari, che si sono quasi passati testimone in un percorso non solo artistico ma soprattutto didattico, il problema del tatto, di toccare le cose, del contatto, è assolutamente importante anche nell'apprendimento dei bambini e per trovare un'educazione rivoluzionaria dal Novecento in avanti. Certamente una mostra che non ci presenta dei capolavori estetici come se andassimo a vedere Caravaggio o Monet, ma una mostra più dedicata agli addetti ai lavori, ma sicuramente molto interessante per capire lo snodarsi di un percorso pedagogico, psicologico, artistico. Per noi, Morena con Stefania sono andati al Palazzo delle Esposizioni e hanno fatto questo viaggio che noi cercheremo di percorrere con loro attraverso la nostra trasmissione. '107, l'anno di nascita, ed è morto nel 98, sempre troppo giovane. Grande protagonista dell'arte e del design del XX secolo. Ricordo che si è occupato anche di ceramica. Di Munari si può dire che è l'avanguardia artistica a sé stante, ironicamente dirompente e capace di raccogliere e rielaborare in maniera assolutamente personale e innovativa l'eredità dei movimenti che lo hanno preceduto e che in qualche caso ha frequentato. E vediamo invece Maria Montessori. Maria Montessori, 20.000 leghe sotto i mari, lo spunto, 1870, Giulio Verne. Tra le prime donne laureate in medicina, candidata 3 volte al premio Nobel per la pace. Il nome intero è Tecla Artemisia Montessori. Gli Stati Uniti la accoglieranno come la donna più interessante d'Europa. L'India le darà ospitalità quando viene internata come cittadina di una nazione nemica. Il metodo che porta il suo nome è in realtà il metodo del bambino colto nelle sue specificità e nei suoi diritti. Nelle case dei bambini diffuse in tutto il mondo si accoglie infatti quell'appello dell'infanzia: aiutami a fare da me. E torniamo a Bruno Munari per questa mostra che mette in parallelo questi due grandi pedagogisti che si sono occupati di infanzia. E l'interazione che passa attraverso i sensi e dove il tatto riveste un ruolo da protagonista. Questo è Munari, è la pratica della pedagogia. Quindi non è solo nella conoscenza intima delle cose, ma anche nel loro apprezzamento estetico. Quindi Munari scrisse: ritroviamo il piacere del tatto. Qui appena entrati sulla sinistra abbiamo un settore con il quale si può interagire, c'è un tavolo diciamo educativo per bambini, naturalmente soprattutto, che illustra appunto come, cioè ci sono anche dei QR code che possono essere scansionati, così viene illustrato un po' il tutto, come Montessori e Munari intendevano sviluppare l'educazione dei bambini. Tutto il resto è soltanto in esposizione, quindi con questo settore si può interagire, soprattutto i bambini possono giocare, provare a suonare come potete vedere, e tutto il resto invece è soltanto espositivo. Che si potrebbe dire materiali didattici o un po'? Materiali sempre didattici, certo, Munari e Montessori, però soltanto in esposizione. L'approccio tattile è un tema molto importante nell'educazione dei bambini. Manipolare gli oggetti produce un'intima connessione con il proprio corpo e implicazione e gestualità che si codificano nella memoria motoria, ovvero nella rappresentazione dello spazio e degli oggetti. Questo tavolo laboratorio permette di osservare, sperimentare e scoprire attraverso le mani una selezione di oggetti e opere, mettendo in dialogo Maria Montessori e Bruno Munari. Libro letto, questo è di Munari, Bruno Munari e Marco Ferrari, ed è qui in mostra. E naturalmente libro letto ha due significati, libro letto e letto, quindi evidentemente qualcosa che è stato già letto, ma che serve anche per dormire. E come si può descrivere questo oggetto che è in mostra? È un oggetto molto grande, in una teca di vetro, e si tratta di un libro, tra molte virgolette, composto di coperte, trapunte e di vari colori, stoffe, con un testo sotto. Uno è: piove, le gocce battono sulle foglie. Oppure: dalla finestra aperta entra una farfalla. Quindi si sfoglia e si dorme, ci si appoggia, è molto grande, però è abbastanza grande per contenere un bambino. Sì, giusto? Assolutamente, potrebbe essere un letto per un bambino chiuso, un libro chiuso. E qui abbiamo invece delle scatole dei rumori. Questi sono oggetti degli anni 50 di Maria Montessori. Sono scatole dei rumori che evidentemente scuotendole fanno dei rumori, ma queste non possiamo provarle. E poi abbiamo lettere smerigliate nere in corsivo minuscolo, e c'è una sorta di abecedario. Questa è Maria Montessori, i suoi materiali didattici. L'argomento è la superficie dei materiali. Il tatto, ancora una volta il tatto. Le infinite qualità della superficie dei materiali, come la levigatezza, la ruvidità, la porosità, la granulosità e tutte le molteplici texture percepibili anche attraverso la vista, appartengono alla percezione tattile. Ogni materiale, cioè, può avere diversi tipi di pelle. È bellissimo questo concetto del materiale che ha una pelle, quindi una superficie, no? Una superficie che può essere di marmo, metallo, ruvida, liscia, zigrinata, smerigliata. In natura esistono infiniti tipi di superficie. Basta pensare a certi frutti, alle cortecce degli alberi, oppure alla pelle degli animali, o alla grande varietà di pietre e minerali. Nel 1896 Maria Montessori si laurea, divenendo una delle prime donne in Italia a praticare la professione di medico, e inizia a lavorare presso la clinica psichiatrica dell'Università di Roma, dove si occupa dei bambini pranestenici. È inaugurata nel 1900 la scuola magistrale ortofrenica, dove sempre Maria Montessori lavora con i bambini pranestenici e inizia a sperimentare alcune tecniche, alcuni materiali da lei stessa ideati, grazie a cui i bambini con disturbi di apprendimento raggiungono gli stessi risultati dei bambini normali. Ed è andiamo al 1907, quando nasce Munari. 1907. L'inaugurazione della prima casa dei bambini a Roma, nel quartiere San Lorenzo, è del 1907. Dopodiché le case dei bambini si diffonderanno dovunque, non solo in Italia ma anche all'estero. Per il fascismo l'educazione montessoriana non era proprio l'ideale. Infatti, a un certo punto, nel 1923, Maria Montessori scrive a Mussolini lamentando il fatto che il metodo Montessori si è diffuso in moltissime nazioni ma viene trascurato proprio in Italia. Addirittura poi nel 1934 viene ordinata la chiusura di tutte le scuole Montessori in Italia. Quindi Maria Montessori lascia l'Italia e si trasferisce a Barcellona, dove continua con le sue pubblicazioni, i suoi corsi e poi i suoi riconoscimenti. Nel 1930 è l'anno in cui Mario Munari costruisce le macchine inutili, e non vi stiamo a spiegare perché sono inutili. Tutto quello che fa Montessori certamente non ha come primo scopo l'utilità. Quindi ci sono i libri illeggibili, ci sono le pitture negative. Tutto quello che fa Munari non è certo sotto la luce dell'utilità, anzi c'è una ricerca proprio di quello che ha valore al di là dell'utilità, quindi le macchine inutili, i libri illeggibili, le aritmie meccaniche, e poi invece ci sono le strutture continue, gli antenati, le sculture di viaggio, quindi un'apertura a 360 gradi della fantasia, della cultura, dell'interesse all'estraneo. Sì, qui c'è proprio l'esplosione della fantasia, assolutamente. C'è una libertà lasciata ai bambini proprio di interagire anche con materiale didattico assolutamente improbabile, si potrebbe dire. 1976 è quello dei messaggi tattili per non vedenti e quello anche dei bonsai, ma questo è molto importante, i messaggi tattili per non vedenti. Ricordiamo, questi due grandi maestri si occupano soprattutto e tanto dei bambini che hanno delle difficoltà, e questo è un grande messaggio che ancora oggi è estremamente importante. Poi nell'80 abbiamo l'olio su tela, il percorso dell'alta tensione e quello dei colori rotanti. Sono tutti argomenti veramente che evocano riflessione, ma soprattutto curiosità, quindi poi ognuno di noi deciderà magari di andare a vedere di che cosa si tratta, a capire di che cosa si tratta. A scoprire ciascuno di noi un lunare diverso, perché è certamente un personaggio assolutamente poliedrico che ha lasciato completamente libera la propria mente e il proprio talento. Toccata la bellezza in questa mostra delle esposizioni romane con Stefania e Morena, andiamo direttamente alla voce raccolta al tempo, siamo nel 90, da Bruno Munari, che ci parla del suo concetto di arte, di visione, di design, a partire dagli artisti che più l'hanno influenzato nella sua crescita culturale artistica stessa. Ho dovuto sognarti, ho trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio. Il primo che ho conosciuto è stato Balla, e l'ho conosciuto attraverso Prampolini, che era un altro artista, pittore e scultore del periodo del secondo futurismo. Sono stato anche a casa di Balla e mi sono molto meravigliato nel vedere come lui aveva dipinto tutta la sua casa, non solo sui quadri, ma anche dipingeva la cornice, dipingeva la parete, dipingeva i mobili dentro e fuori, le porte, le maniglie, tutto quello che c'era era tutto dipinto da Balla. Altri maestri che mi hanno influenzato, alcuni li ho conosciuti, altri no, sono Kandinsky, Mondrian, Arp, però io già da allora facevo delle considerazioni su Kandinsky, per esempio, considerando Kandinsky delle immagini, non quello delle macchie, quello delle figure, e mi sembrava di vedere in fondo una natura morta di forme inventate, E siccome Kandinsky dipingeva ancora con i colori tonali, che sono gli stessi colori della pittura figurativa, io pensavo che Kandinsky poteva essere considerato come un pittore verista di forme astratte, mentre io, che ero spinto anch'io a inventare delle forme, preferivo queste forme costruirle al vero, e lì sono nate le prime macchine inutili. Ci ha parlato di artisti che non hanno interessato solo la storia dell'arte, ma anche la storia di quello che si chiama design, visual design e comunicazione visiva. Che differenza c'è tra artista, designer e stilista? Sì, in effetti molte persone confondono queste tre attività. In realtà si potrebbe tentare di fare una definizione provvisoria, tanto per intenderci. L'artista si potrebbe dire che è un individuo dotato di particolari sensibilità, di sensori, come se fossero elettronici, che è sensibile a degli stimoli che vengono dalla realtà e che lui vede per primo e che cerca di comunicare quello che ha visto, cerca di comunicarlo agli altri attraverso delle forme d'arte che una volta erano soltanto pittura e scultura, ma che oggi l'arte è esplosa e può essere fatta con qualunque materiale, con qualunque mezzo, con qualunque regola, purché abbia un contenuto, un messaggio, anche soltanto estetico, da comunicare. Questo è il lavoro dell'artista, mentre il lavoro del designer funziona in un altro modo, cioè il designer scopre che nella realtà, nella vita quotidiana, così nei contatti con gli altri, ci sono delle cose che non sono ancora risolte. E allora cerca di trovare una soluzione per migliorare o un prodotto o un servizio. Per esempio, c'è un tipo di arredamento per bambini che è fatto con quel letto che si chiama il letto a castello. Di solito è un letto di legno con due materassi, uno a un livello di, diciamo, 60 centimetri, uno a livello di 1,80 metro, e i ragazzi dormono, i bambini anche, dentro in questi due letti, uno sovrapposto all'altro. Però sono ingombranti, fanno molta ombra, sono pesanti. Allora io ho pensato di costruirne uno con del tondino di ferro, che è come costruire una gabbia per gli uccelli, diciamo. Però questa gabbia è aperta e questo oggetto, oltre ai due spazi per dormire, che si possono essere messi a diverse altezze, ci sono anche delle mensole, 4 metri di mensole, c'è un tavolo che si aggancia, tutto si aggancia, e questo oggetto è di colore neutro, perché così chi lo adopera, se vuole un colore, mette una coperta rossa e tutto diventa colorato, oppure quando è stufo del rosso cambia la coperta, eccetera. Ma quello che conta è che, fatto con questo materiale, non ingombra, perché non fa neanche l'ombra, quasi non si vede, e quindi è un miglioramento di quello che era prima il letto a castello. E se possiamo considerare anche, uno si può dire, ma allora dov'è l'intervento estetico? L'estetica è un'estetica particolare, quella del designer, che si preoccupa di dare qualità e dare estetica alla tecnica. Quindi non è arte applicata, perché arte applicata sarebbe il vecchio letto a castello dipinto così, come si vuole, con sopra delle figure oppure dei triangoli, dei quadrati, delle decorazioni astratte. Ma questo comporta già una, come si dice, un'attività diversa dal normale. Invece lo stilista è una specie di designer, perché anche lui progetta per l'industria, però lo stilista mette nei suoi progetti una componente che il designer non mette e che è la componente della moda. Si potrebbe quindi dire che lo stilista progetta per il consumo rapido, mentre il designer progetta per, come si potrebbe dire, per il consumo vero e proprio, cioè un oggetto di design si potrebbe considerare anche la sedia sdraio da spiaggia, per esempio, questa sedia che non si sa chi l'abbia disegnata, ma indubbiamente l'ha disegnata con lo spirito del design. Questo oggetto non ha problemi di stile per conto suo, no? È lui un oggetto che ha una sua estetica e ha questi vantaggi, che può essere ridotto a una piccola dimensione, perché quando è chiuso è soltanto 3 cm, quando è aperto è comodissimo, e quindi è un oggetto che ci sarà sempre. Questi sono gli oggetti del design. Un altro oggetto è il leggio del treppiede, il treppiede al leggio dell'orchestrale, che si piega, si riduce in un piccolo dimensione. Mentre lo stilista disegna per la moda, e quindi siccome non c'è niente che passa tanto di moda come la moda, allora è chiaro che quando uno ha comprato un oggetto di moda, subito dopo lo stilista gli dice: adesso non si usa più quello, si usa quest'altro perché questo è di moda, e tutti continuano a comprare e a buttar via queste cose degli stilisti. Solitamente il concetto di design è legato alla storia dell'industria, eppure tantissime delle grandi invenzioni sono frutto di scoperte di anonimi. Non sappiamo chi ha inventato la cerniera lampo, la sedia a sdraio e tanti altri oggetti o meccanismi che hanno rivoluzionato la nostra vita. Che destino avrà oggi la fantasia e la creatività del design? Obbedirà solo alle esigenze dell'industria o ci sarà sempre spazio per l'inventiva personale? Ma l'inventiva personale, quando c'è, c'è e funziona in tutti i casi. Quindi direi che l'inventiva del designer è un'inventiva rivolta verso la, come si potrebbe dire, la essenzialità di progettazione, verso la semplicità, verso la riduzione dei tempi di lavoro per produrre un oggetto che svolga però completamente le sue funzioni. Mentre l'estetica dello stilista è legata al gusto, alla moda, a tante altre cose, come abbiamo detto prima. Ma io credo che l'inventiva del design potrebbe essere in parte anche considerata alla pari di quella dell'artista, perché che cosa fa in fondo l'artista? L'artista ha degli stimoli dalla natura, dall'ambiente, dai contatti umani, eccetera, e cerca di costruire un messaggio per comunicare qualcosa. Il designer invece si rivolge sempre all'ambiente, agli usi, alle persone, ai bisogni, eccetera, e cerca anche lui di comunicare qualcosa. I due hanno in comune la stessa inventiva, diciamo, perché quando un pittore, per esempio come Van Gogh, si mette a usare il colore così a pennellate brutali, diciamo, cosa che nel periodo, per esempio, ai tempi di Leonardo e di Raffaello, un pittore così sarebbe stato considerato un matto, sarebbe considerato da eliminare, da non considerare, sarebbe considerato da non considerare. Mentre l'inventiva che c'è nel design è un'inventiva, diciamo, più tecnologica, mentre l'inventiva che c'è nel campo dell'arte è un'inventiva più libera, che però tende anche quella a comunicare un messaggio preciso di ordine estetico più che un bisogno pratico. Ecco. Prima di dare del pazzo a Van Gogh, sappi che lui è terrazzo, tu ground floor. Prima di dire che era fuori di senno, fammi un disegno con fogli di carta e crayon. Van Gogh, mica quel tizio là, ma uno che ha la pietà, libri di Emil Zola, Shakespeare nelle corde, Dickens nelle corde, tu leggi manuale di record, lui 300 lettere, letteratura.